cenere sulla mia faccia, ho dei sacchi da togliere dalla finestra, i pensieri da pungere nella mia giacca, prendo quello che conta e mi resta. Credere nella giustizia, vedo bimbi rincorrersi tra la sporcizia, muri e ragioni cedere uno alla volta, e ogni ponte che salta è una festa. Lasciarsi dietro la porta, con la fretta di correre, nessuno che aspetta, ogni giorno è una colpa che ti salva, una calma che ti spianca, e ogni gesto da compiere resta lettera morta, una vaga promessa che ti apposta. Oltre il sentiero una croce, eco di una mitraglia, nel gorgo di una tempesta, c'è una voce che canta la speranza. Nella radura di sera c'è una luna che piange, una che si dispera, ma se è vero che si accende una volta sola, una luce ti basta, ti consola. Di questa vita cometa ti rimane la coda, il tuo posto una sedia, una spinge di sabbia, come un naso che cola, tutto quello che abbraccia lo abbandona. Ogni stagione che passa è uno scatto, una corsa che respira fatica, e il traguardo è una gioia che spaventa un dolore.